Setsche Kinderlach, gedenkche Teiere, wo's ihr lernt, do. Sagtche noch einmal und danke noch einmal, kommet alle froh. Sagtche noch einmal und danke noch einmal, kommet alle. La giornata della Shoah, la nostra radio ha dedicato una buona parte della trasmissione a eventi, a ricorrenze che si sono tenute in Italia. Ebbene, ce n'è una che si è tenuta qui a New York, molto importante, una ricorrenza della Shoah al nostro Consolato Generale d'Italia. E qui questa mattina una gran quantità di gente, una folla, anche dei passanti, devo dire che arrivano e spontaneamente si fermano, sono andati a questi microfoni che sono stati sistemati dal nostro Consolato Generale sotto il coordinamento di Natalia Quintavalle, la nostra console generale qui a New York, per un momento, devo dire, molto toccante, molto emozionante. Fra poco toccherà anche a me andare ai microfoni e fare che cosa? Beh, leggere da una lista di persone che sono cadute, sono state uccise nei campi di concentramento, i nomi di queste persone. E dunque il nostro consolato, facendo quello che fa, porta per le strade di New York, l'unico tra l'altro a proporre un'iniziativa di questo genere, e porta per le strade di New York, vi dicevo, questo messaggio, che è un messaggio non soltanto per il ricordo, ma è un messaggio contro la discriminazione, è un messaggio contro coloro che continuano a ostinarsi a vivere nel mondo ristretto all'interno di un paraocchi che ormai non ha più ragione di esistere nel mondo della globalizzazione.